Una decisione a sorpresa arrivata nella notte potrebbe cambiare il mondo del credito italiano. Intesa San Paolo, la prima banca del paese, lancia un'offerta sulla terza, UbiBanca. Non concordata, porterebbe alla creazione del settimo gruppo bancario europeo. Vedremo stamattina quale sarà la reazione del mercato e prevedibilmente quella della politica, che raramente tace di fronte a operazioni di queste dimensioni. Vedremo quanto questa politica parlerà opportunamente o meno. Politica che, momentaneamente archiviata la vicenda prescrizione, si divide sulle modifiche ai decreti sicurezza, mentre si continua a vociferare di un accordo tra Renzi e Salvini per un governo di transizione in vista del voto. Cosa ci sia di vero non è chiaro, ma bastano le voci, le indiscrezioni, retroscena ad alimentare un clima di sospetti. Intanto però possiamo registrare dei dati, per esempio quelli delle previsioni di Nomura, che vedono l'Italia in recessione già nel 2020. O quelli sul reddito di cittadinanza, che mostrano come solo in 40.000 abbiano trovato lavoro. O quelli sul coronavirus, con i morti, che sono ormai 1.800. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. Di Simone Spezia. Se possiamo iniziare, pare facile con sto raffreddore, guarda, sì. Vediamo se riusciamo ad arrivare alle 9 di questa mattina, tra tutto quanto. Giorgio De Luca in assistenza e redazione, Carmelo Lauricella in regia, eccoci care ascoltatrici e cari ascoltatori. Buongiorno, le 6:32. Di questo martedì 18 febbraio. 349-238-6666 per gli sms, per i messaggi su WhatsApp, anche audio. Fate come sempre sentire la vostra voce. Oh, già qualcuno ci scrive, ancora prima che inizi la trasmissione, alle 6:26. C'è chi ci scrive: ma del referendum non ne parlate mai, ma perché? Si parla ovviamente del referendum confermativo, quello sulla riforma costituzionale, quella che taglia i parlamentari. Ne parleremo, avremo modo sicuramente. Tenga presente però, tieni presente però, che è un po' il convitato di pietra di tutto questo, è il motivo per il quale si fanno tutti questi scenari politici in questo momento. Esattamente il fatto che il referendum in arrivo non consente di andare a votare presto e quindi inevitabilmente ci dovrà essere una qualche forma di governo di transizione. Quanto duri non si sa, però così è. Come si diceva, sicuramente la notizia di giornata però sarà quella di questa offerta di Intesa San Paolo su UbiBanca, Ne discuteremo, ne parleremo nell'arco della mattinata, ne parleremo anche con il nostro direttore Fabio Tamburini. Intanto la giornata politica tiene dentro che cosa? Tiene dentro la riunione di ieri sui famosi decreti sicurezza. Le modifiche ai decreti sicurezza, che erano un po' il punto centrale, uno dei punti centrali di questa avventura di governo, perché l'idea era, come era nato questo governo, no? Contrastiamo Salvini. E vabbè, contrastiamo Salvini. Come lo facciamo poi praticamente? Beh, mettiamo mano ai decreti sicurezza, che il PD, l'EU in particolare, il PD e l'EU in particolare hanno sempre detto erano una vergogna. Poi ieri si riuniscono. E chi propone le modifiche più radicali? Non il PD, non l'EU, ma Italia Viva. Ma pensa un po'. Con i 5 Stelle che ovviamente si oppongono, dicono di no, non ci stiamo. Per quanto poi Zingaretti dica: siamo al lavoro per cancellarli, sentiamo. Il presidente Conte sta lavorando giustamente, come aveva detto, alla verifica di governo sui contenuti, sulle cose che interessano le persone, come ad esempio finalmente togliere quei decreti propaganda che non servivano a nulla, sicuramente non alla sicurezza. Anzi, finalmente l'Italia ha un ottimo ministro degli interni che sta preparando dei decreti vivibilità e sicurezza, perché la sicurezza è un diritto dei cittadini, ma va data investendo sulle forze dell'ordine, investendo nelle periferie, sulla cultura, sullo sport, su un'idea vera di sicurezza per le persone e non sulla paura che veniva distillata. Un ascoltatore in maniera inquietante mi scrive: Spezia, ti vedo e ti sento. Non so, forse ci sta guardando su Facebook. Ve l'ho detto che siamo in diretta su Facebook. No, però tanto ormai lo sapete. Mette un po' paura, eh? Sono sotto controllo. Come? C'è questa storia oggi. Adesso recupero il giornale dove l'ho trovata, eh? Pare che si stia indagando su un drone che è entrato nel cortile di casa di Di Maio. Ci è rimasto 10 minuti e non si sa se ha fatto delle riprese, ha verificato qualcosa. Chissà. Va bene, Flavia Perina scrive per l'inchiesta, per la stampa, è un ex parlamentare, tante cose. Flavia, buongiorno, ciao. Buongiorno a tutti. Francesco Cancellato, vice direttore di Fanpage. Francesco, eccoci anche con te. Buongiorno a tutti. Flavia, insomma, c'è chi potrebbe scambiare questa posizione dura sui decreti sicurezza di Italia Viva come, chiamiamola così, un'operazione di trolling ulteriore nei confronti della maggioranza. La realtà è che la riunione di ieri è stata veramente curiosa, devo dirti la verità, perché io mi sarei aspettato che i primi a porre la questione di intervenire più duramente sui decreti sicurezza, dico a prescindere da come la si pensi naturalmente, lo dico per gli ascoltatori, cioè non è il nostro pensiero, stiamo semplicemente riferendo quello che è successo ieri nel vertice, sarebbero stati appunto l'EU in particolare, no? Magari con Fratoianni o Speranza belli incattiviti su questa cosa, e poi il Partito Democratico, e invece arriva Italia Viva. Che cos'è? Come mai? È curiosa, no, questa cosa? Beh, Italia Viva è insomma il partito che si è assunto un po' il ruolo del Pierino, del grillo parlante nello scenario politico di oggi, quindi tende a cavalcare posizioni estremistiche di un tipo o dell'altro, non fa una grande differenza. Diciamo, si mette all'estrema a destra del governo o a sinistra del governo, a sinistra a seconda delle situazioni, con grande facilità, perché, come dice Matteo Renzi, vuole esercitare un'azione di pungolo, oppure, come dicono gli altri, vuole semplicemente rompere le scatole e mettere in difficoltà il governo ogni volta che può. Su questa vicenda è particolarmente bizzarra la posizione di Italia Viva, perché alla fine la filosofia di questi decreti di sicurezza è abbastanza simile alla vecchia filosofia di Marco Minniti, che è stato ministro nel governo di Renzi, e quindi sinceramente non ci si aspettava magari questo tipo di posizione, però è così, loro hanno assunto questo ruolo di rompiscatole, dei grandissimi rompiscatole del governo, ed evidentemente intendono continuare a esercitarlo. Francesco, si vota secondo te? Cioè, lo vedi questo accordo, no, Salvini-Renzi, il quale si continua a vociferare? A me lascia molto perplesso, devo dire la verità, no, devo essere molto sincero, però nella vita non si sa mai. In questa legislatura abbiamo visto di tutto, quindi sai. Ora dovrei vedere che Salvini e Renzi stringersi la mano e dirlo pubblicamente, per crederci. Nel senso che, scusate, mi sembra una prospettiva totalmente irrealistica. Andreotti diceva: è meglio tirare a campare che tirare le cuoia. Questo governo è quasi oltre, cioè è meglio governo Conte bis che tirare a campare. Cioè, è un governo che deve arrivare alle elezioni. Tira più a campare del tirare a campare, dici, questo governo. È un governo iperbalneare. Di fatto stiamo parlando di un governo che ha un obiettivo strategico sin dall'inizio, durare fino al momento in cui si elegge il nuovo Presidente della Repubblica, perché c'è la volontà del Quirinale e degli azionisti di maggioranza di questo governo di evitare che si vada al voto e che un Parlamento con Salvini al 30% e Meloni al 15% elegga un Presidente della Repubblica, tutto per ragioni legate alla permanenza italiana nell'Unione Europea. E questo è un po' il convitato di pietra, almeno la paura che in qualche modo un Presidente della Repubblica eletto da Salvini e Meloni, con una maggioranza di governo Salvini e Meloni, faccia partire una sorta di scommessa sull'uscita dell'Italia dall'euro, che poi con gli inevitabili effetti sui mercati eccetera, certo, si autoavvera. Ecco, quello è il vero obiettivo di questo governo. Tutto quello che sta nel mezzo è fondamentalmente un prendere tempo fino al luglio del 2021, quando inizierà a fare il cambiamento. Allora, ancora decreti sicurezza, non abbiamo fatto sentire l'altra voce, quella dell'uomo che li ha firmati, Matteo Salvini. Sentiamolo, va. Noi cercheremo di fermare chi vuole fermare i decreti, perché io ricordo a coloro che ignorano, alle sardine, ai pidini, ai signor Conte che nei decreti sicurezza non si parla solo di immigrazione, mettendo regole serie per avvicinare l'Italia ai modelli di efficienza europea, di risparmio, di spesa, ma si parla anche di soldi ai sindaci, poteri ai poliziotti, strumenti di lavoro per i vigili del fuoco, si raddoppia la potenza dell'agenzia dei beni confiscati alla mafia, la camorra e l'andrangheta. Quindi chi parla di cancellare i decreti sicurezza aiuta la mafia, la camorra e l'andrangheta. E così, questa è la posizione di Salvini. Poi sulla sostanza di tutto questo, appunto, i decreti sicurezza, in realtà pare che qualche piccolo passo avanti ci sia stato, perché si sta ragionando se riaprire, insomma, far ripartire il sistema degli SPRAR, dell'accoglienza territoriale diffusa, se ragionare sui permessi umanitari. Da dire che la giornata di ieri sul fronte immigrazione ha visto anche un'altra questione importante, un altro evento importante, la ripartenza della missione europea, che non si chiamerà più Sofia, avrà un altro nome, pattuglierà un'altra area che non sarà quella del Mediterraneo, ma non di questa parte del Mediterraneo, ma la parte del Mediterraneo orientale, rompendo tra l'altro le scatole alla Turchia e innescando delle inevitabili tensioni, perché il tema è il contrasto al traffico di armi verso la Libia. Però diciamo, da segnalare che su questo alla fine si è arrivati ad un accordo in Europa, e quindi qualcosa da questo lato evidentemente inizia a girare. Ne parla il ministro degli esteri Luigi Di Maio, no, la missione europea per bloccare l'ingresso delle armi, e la missione Sofia appunto non esiste più, sentiamolo. È una missione contro l'embargo che non è Sofia, Sofia non esiste più, la missione Sofia non esiste più. Adesso esiste una missione che blocca le armi e che ha delle regole di ingaggio molto importanti. La prima di tutte è che le navi che saranno disposte in mare saranno nella zona est della Libia, dove c'è il traffico di armi. Abbiamo convenuto che se per caso queste navi dovessero scatenare un pull factor, cioè fare in modo che, essendo vicino alla costa, fanno partire più migranti, la missione navale si blocca. E qua arriviamo, cara Flavia, al cuore della questione, no? La Libia, i giochi che si fanno nel Mediterraneo, insomma, perché tanto parliamo di decreti di sicurezza, tanto parliamo di immigrazione, ma tutto molto si gioca là. Sì, non c'è dubbio, il punto di rimente di questa missione è quale sarà il paese guida. L'Italia ha sempre rivendicato una sorta di primogenitura della gestione delle cose del Mediterraneo e ha avuto la guida di diverse missioni che si sono svolte per il contrasto all'immigrazione prevalentemente. In questa circostanza si capirà il nostro peso anche da quale sarà la catena di comando di questa nuova missione. L'obiettivo del conflitto libico è palese, ma è evidente che l'obiettivo secondario è anche quello di contrastare un'eventuale possibile futura ondata di migranti, perché il grande timore europeo rispetto al conflitto libico era questo. Poi in realtà si è verificato solo parzialmente, perché ondate di sbarchi come quelle viste 4 anni fa, 5 anni fa non ci sono state, il che ci dovrebbe portare anche un po' una riflessione su tutto questo argomento. Bisogna attrezzarsi a gestire una situazione di ordinaria amministrazione, perché la straordinaria amministrazione dell'epoca della guerra in Siria, dell'ISIS, delle rivoluzioni arabe che hanno provocato un arrembaggio di massa verso le nostre coste è, per fortuna nostra e anche dei diretti interessati, è finita. La situazione, salvo il focolaio libico, nel Medio Oriente è assai più tranquilla di quella che non era 3, 4, 5 anni fa, e quindi si può ragionare finalmente un po' sulla lunga distanza, sulla gestione di un fenomeno che sarà ordinario, che non avrà più quei numeri enormi, ma numeri differenti, e che va gestito in un modo differente. Sì, in un modo differente. Traffico. Quattro mattino. Ma intanto registriamo da ieri notte, ovviamente da ieri sera tardi, no? Questo fermento nel mondo bancario, per la notizia l'avete sentita anche in GR24, per questa offerta arrivata da Intesa San Paolo per UbiBanca, no? UbiBanca che proprio ieri aveva presentato il piano industriale, un piano industriale nel quale a fianco a degli esuberi erano previste anche delle assunzioni e che insomma creerebbe il settimo gruppo bancario europeo, con una collocazione però, per così dire, prevalentemente italiana. Del resto lo scrive bene Marco Ferrando oggi sul sito del Sole 24 Ore, trovate una sua analisi. Insomma, sposarsi all'estero non è facile oggi, perché insomma l'unione bancaria non è completa, europea è ancora a metà del guado, ci sono troppe incertezze regolatorie, di capitale, e quindi che cosa succede? Succede poi che ci si sposta sulla parte domestica. Di certo Francesco Cancellato insomma apre un po' di scenari nuovi tutto questo, no? Questa operazione è un'operazione che va un po' in controtendenza rispetto a quelle che abbiamo visto, diciamo, negli ultimi mesi. E qua parliamo di una banca in salute, quella che è sempre stata considerata anche una delle prime banche in Europa, come negli stress test, che è Banca Intesa, Intesa San Paolo, che si fonde con una banca che ieri ha staccato un dividendo importante, che, come dicevi giustamente tu, ha presentato un piano industriale sicuramente con degli esuberi, ma anche con utili risultati, diciamo, abbastanza positivi. Quindi non parliamo di una banca decotta, non parliamo di Bari, di Carige, sì, di MPS, certo, di quello che siamo andati. Diciamo che forse da un lato, mentre c'è un sistema di banca di territorio che va in forte crisi, e mentre Unicredit anche da un certo punto di vista è costretta a fare alcune radicali operazioni di ristrutturazione della propria forza lavoro, abbiamo un gruppo bancario che prova a fare un salto di scala. Diciamo, si sta un po' polarizzando il sistema bancario italiano verso quello che potrebbe veramente diventare il dominatore. Ricordiamo che Intesa, a seguito della crisi delle due banche venete, si è anche presa le due banche venete, di fatto pagandole un euro. Sì, ed è già appunto la prima banca italiana. Vedremo cosa succederà, vedremo quali saranno le reazioni del mercato e, come si diceva, anche della politica, come sempre un po' su questi temi interviene. Oh, scrive un ascoltatore, se non parliamo oggi del coronavirus, ce l'abbiamo da qualche parte, Carmelo Lauricella, ancora ripeschiamo intanto sentiamo le dichiarazioni di ieri di Di Maio, facciamo così, sentiamo le dichiarazioni di ieri, via. Agli italiani che sono sulla nave da crociera dico che stiamo lavorando ogni ora da stamattina a favorire il rientro il prima possibile con il volo e con ovviamente l'allestimento della quarantena in Italia, che si deve fare con le strutture militari o strutture dello Stato. Ogni Stato membro sta adottando delle misure rispetto alla vicenda e all'emergenza del coronavirus. Eccolo qua, il coronavirus. Dunque, siamo a 1800 morti, ragazzi, sono i dati di stamattina. E abbiamo anche insomma il ministro dell'economia Gualtieri, che inizia a parlare della possibilità che insomma si debba intervenire economicamente, perché i danni rischiano di essere parecchi. Sentiamo Gualtieri, va. È ancora prematuro, attendiamo di monitorare gli sviluppi dell'economia cinese, stiamo lavorando su questo. Naturalmente la priorità del governo italiano è innanzitutto quello di difendere la salute dei cittadini, quindi le nostre azioni sono ispirate alla massima prudenza. Al tempo stesso stiamo monitorando gli effetti economici sui vari settori per individuare eventualmente misure specifiche di sostegno a singoli ambiti. E qua, cara Flavia Perina, un po' torniamo a bomba, no? Perché qua abbiamo sulle pagine dei giornali, lo troviamo, c'era uscito ieri l'allarme di Nomura, della banca Nomura, sull'Italia, che parla di un'Italia già in recessione quest'anno anche a causa del coronavirus. E torniamo a bomba, perché insomma si parlava di un governo che galleggia o che si incarta, si imballa, e il tema mi sembra esattamente questo. Insomma, queste previsioni di Nomura ci riportano un po' con i piedi per terra, così come avevano fatto quelle della Commissione europea la settimana scorsa. Sì, no, ci riportano a noi che le leggiamo, diciamo, al tipo di pubblico che legge e considera questo tipo di problemi, immagino l'impresa, immagino la fascia più sensibile dei lavoratori, ma nel governo tutto questo sembra abbastanza scivolare come olio sulla, come acqua sull'olio. La partita economica, che è la vera emergenza del paese, e lo sanno tutti quanti, è quella che questo governo stenta ad affrontare, stenta ad aprire. Probabilmente non ha un'idea né comune né individuale dei singoli partiti su come gestirla, e quindi vediamo che nel dibattito politico questi temi non entrano proprio per niente. Il dibattito politico italiano è fatto d'altro: quando si vota, come si elegge il Presidente della Repubblica, la correzione è abbastanza modesta, anche questa vicenda dei decreti di sicurezza susciterà un putiferio per portare, sì, immagino, a modeste correzioni, perché più di quello non sarà fatto e non è possibile fare, ma la partita economica viene lasciata in sospeso, non c'è che, è come se, che è devo come dire? Se non ci fosse nell'interesse, nell'intenzione di affrontare una cosa così grande che i partiti di governo percepiscono quasi superiore alle loro forze. Sì, che devo dire, è veramente una cosa strana. Dicevamo ieri, non è che parlare di prescrizione o parlare di decreti sicurezza ti impedisce di affrontare i dossier economici, perché i dossier economici sono là, insomma, non è che tutte le stesse persone che si occupano di quello si devono occupare anche di quell'altro, insomma, Francesco Cancellato, cioè si possono fare le due cose contemporaneamente, no? Se ci fossero i soldi, sì, si potrebbero fare benissimo. Il problema è che avremo altri 28 miliardi di clausole di salvaguardia da disinnescare prossima legge di bilancio. Bisogna ricordare. No, ma giusto, cose. Hai fatto benissimo. Se ci fossero i soldi da spendere, questo governo parlerebbe tantissimo di economia, però ci sono soldi da tagliare e nessuno si vuole prendere la briga di dover beccare la propaganda di Salvini, che dice: ecco il governo dei tagli, ecco il governo che sforbicia. Qua stiamo ancora pagando il conto di tante manovre, diciamo, non coraggiose, se non eccessivamente spendaccione degli anni precedenti. Tu prima hai ricordato una cosa secondo me abbastanza fondamentale: con il reddito di cittadinanza, che doveva essere una misura di politiche attive del lavoro, non dimentichiamo, cioè danno un sussidio, hanno trovato lavoro 40.000 persone, cioè forse, diciamo, le politiche per l'impiego del Comune di Milano hanno prodotto gli stessi risultati. Sì. Nello stesso tempo, con quota 100 ci doveva essere 3 assunti giovani ogni pensionato che va in pensione. Non siamo neanche al rapporto inverso, siamo a meno di un assunto. Guarda, l'altro giorno Salvini da noi abbiamo avuto anche una discussione su questo con Salvini. Salvini ha dato i numeri, tra l'altro, il rapporto inverso, cioè 3 uscite e per ogni entrata, un'entrata ogni 3 uscite. Sì, però è da tre cartacchi di far così, cioè nel senso ricordarsi che c'era il 3 e c'era l'1, come lo 0,8%. Cioè, siamo a del 20,4, scusami, la memoria mi fa difetto. Però veramente, adesso senza gli scherzi, la questione seria è che questo è un paese che a giugno col DEF e a settembre con la NADEF, e se ci sarà, e a ottobre con la legge di bilancio dovrà trovare altri 28 miliardi. E soprattutto i miliardi saranno nuovo debito che genererà clausole di salvaguardia ulteriori. Allora dobbiamo chiudere. Comunque il tema è: non si cresce, il tema è questo. Flavia Perina, che scrive per l'Inchiesta, per La Stampa, è un ex parlamentare e tante altre cose, grazie per essere stato con noi. Flavia, alla prossima, con piacere. Francesco Cancellato, altrettanto, vice direttore di Fanpage, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa. Ciao Di Maio, come va? No, tanto bene, è 2 giorni con un virus intestinale.